soon as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti. Oggi pomeriggio, puntata speciale del pane e le rose. Ne facciamo poche, ma sono, dal mio punto di vista, interessanti e sono anche puntate che vengono apprezzate dai nostri ascoltatori. Le puntate dedicate all'arte. Abbiamo parlato dell'arte di strada, abbiamo parlato di ex pittori operai che continuano la loro lotta attraverso la pittura. Oggi abbiamo intervistato lei, che è un'artista impegnata, ex attrice, Eloisa Guidarelli, di Bologna. Invito tutti i compagni ad andare a vedere le sue opere su Facebook, su Instagram, sul suo sito, Eloisa Guidarelli, perché veramente ne vale la pena. Noi vogliamo promuovere l'arte impegnata, l'arte che pone dei temi di classe, dei temi di cui si affrontano le questioni dei diritti, del sociale, contro la violenza sulle donne, contro la violenza della polizia verso gli immigrati, verso i carcerati, verso i lavoratori. Ed Eloisa è una che ha fatto tanti dipinti in cui ci sono questi temi, come il tema della guerra, a lei sta molto a cuore, è una pacifista convinta. Se la sentirete nelle sue parole, i suoi progetti e quello che lei vuole fare. Sentiamo un pezzo bellissimo scelto da lei, la musica è stata scelta da Eloisa, perché sapevo che ha dei gusti molto belli. Cantare di Mannarino, poi ci sarà Mariposa della Fiorella Mannoia, che è un bellissimo testo. Poi ci sentiremo le conclusioni. Per adesso tra un po' un pezzo musicale e poi l'intervista. A dopo. Eccoci qui, Ecco, come vi avevo detto nella scorsa puntata, abbiamo finalmente intervistato Eloisa Guidarelli, una pittrice impegnata. Infatti noi intervistiamo solo pittrici impegnate, o pittori come il Pane delle Rose. Questo programma è il programma dei metalmeccanici, però quando ci siamo sentiti, io ho visto i tuoi quadri su Facebook, non ti ho mai visto in nessuna mostra, sono sincero, ho visto i tuoi quadri su Facebook e sono rimasto colpito dai temi che tratti, e per questo, siccome a noi del Pane Rosa interessa pubblicizzare, parlare e che i lavoratori conoscano questi pittori che affrontano tematiche sul sociale soprattutto, questa intervista era un obbligo per me, visto che sei anche di Bologna, abiti vicino a casa mia, non lontano. E per questo oggi finalmente ci incontriamo e voglio da te, voglio capire innanzitutto cosa ti ha spinto a fare questi quadri, la tua arte da dove nasce, i temi che tu affronti. Bene, ciao, grazie di tutto quanto. Dunque, ho iniziato a dipingere perché mi ero ammalata, mi sono ammalata, e questa malattia, come spesso accade in queste situazioni, le malattie ti portano anche qualche cosa, qualche sorpresa, qualche cosa di nuovo. Dovevo stare a casa, diciamo, per 2 mesi e lì ho sentito questo grande istinto, questa voglia di dipingere. Tra l'altro, quando ho cominciato... Perché sì, tu non nasci pittrice? No, io vengo da una scuola di grafica pubblicitaria, però non ho mai fatto la classica scuola d'arte o comunque non ho fatto scuole di pittura, e ho fatto tanto teatro. E poi ho sentito, appunto, in questa fase della malattia, che poi insomma per fortuna tutto è passato, è andato tutto bene, però da lì ho cominciato a dipingere, e le mie tematiche iniziali sono state proprio quelle del periodo che stavo vivendo, e quel periodo era intorno al 2000-2001, quindi ci sono stati i fatti della Diaz, i fatti tragici della mattanza di Genova. E quindi ho cominciato con questi dipinti, che erano molto molto simbolici, con veramente molto molto istintivi. E non avevo tele, non avevo colori, perché appunto, non avendo mai dipinto prima, avevo in casa delle stuoie, sai, le vecchie stuoie proprio che si utilizzavano in spiaggia. Sì, certo, sì. Ecco, avevo quelle, ho iniziato a dipingere su quelle con colori acrilici, devo dire, quello che avevo in casa, quindi proprio tubetti inquietanti, nulla che potessi andare a comprare, nulla che potessi, quello che avevo. E poi pian piano questa passione non si è fermata lì. Ho iniziato subito con le tematiche sociali, questo è stato l'istinto. Poi ho continuato sempre con queste tematiche dei diritti umani, ho lavorato molto anche sui diritti delle donne. Sono andata avanti, ho cambiato il mio materiale, ho cercato di farmi le tele da sola, quindi inizialmente proprio costruendo la tela, che è un lavoraccio, telaio. Poi mi sono anche avvicinata alle tele che si comprano, rilassandomi un attimo, però ho vissuto tutta la fase della pittura, proprio della fatica, e da lì capisci anche se hai passione o meno, perché o ti stanchi, e invece no, ancora continua, è diventato una cosa sempre più importante, sempre più grande, e quello che dipingo sono appunto in realtà il periodo storico che vivo, che attraverso. Mi pare impossibile girarmi dall'altra parte, ma lo dipingo anche perché mi colpisce tantissimo dentro il fatto che oggi i diritti umani un po' a livello mondiale siano veramente così, così a rischio, anche proprio i diritti più elementari, e attraverso la pittura è un modo per buttare fuori quello che mi fa stare male, anzitutto subito, e poi è un modo anche per cristallizzarlo. Argomenti di cui magari accade oggi una tragedia, poi non si parla più, no, io lo fermo, lo dico, è accaduto questo, ti trasmetto questo, è accaduto questo, queste persone stanno lottando, c'è questo dolore, ecco. Tu so che hai anche dei progetti. Sì. In ballo, ci vuoi parlare di questi progetti, perché a me interessano e interessano anche al pubblico che ci ascolta. Allora, io è da più di un anno che sto cercando uno spazio, preferibilmente a Bologna, per comodità e perché ho coinvolto molte persone che sono bolognesi, che avrebbero probabilmente facilità ad arrivare comunque a Bologna. E il progetto tratta sempre di diritti umani e della violenza che avviene da parte delle forze dell'ordine. Questo era cominciato con me, diciamo, dai fatti di Capovetere che avevo sentito. Ero rimasta molto colpita dai fatti di Capovetere, non mi sono accontentata ovviamente della notizia dei telegiornali, sono andata a fare la mia ricerca su Google, internet, ho sentito le interviste in diretta e insomma non mi vergogno a dire che io in quel caso lì ho proprio pianto, sentendo un detenuto parlare di e vedere queste immagini, questi tunnel che creano le forze dell'ordine, dove dentro persone veramente incredibilmente fragili, proprio dal punto di vista ormai della loro identità, che è ridotta a un numero da ogni punto di vista, vengono manganellati e picchiati da persone che in quel momento appunto hanno il potere. Da qui ho detto: voglio fare un progetto contro l'abuso di potere. Inizialmente era legato al carcere, dopo da lì sono andata a seguirmi i fatti di Modena e tanti altri fatti, e ho dipinto queste tavole. Queste tavole che poi si possono trovare insomma sul sito internet. Da lì però abbiamo avuto difficoltà, scusa, a trovare uno spazio che inizialmente volevamo trovare nelle carceri. Naturalmente con un argomento del genere portato nelle carceri non ci hanno dato spazio. era un proprio azzardo, era proprio un azzardo molto grosso, però ci abbiamo tentato. E con l'appoggio sempre dell'associazione Antigone, ho detto: a questo punto però non accetto questo no, e allarghiamo il progetto, allarghiamolo, e parlo a questo punto di abuso di potere da parte delle forze dell'ordine, però ogni tipo di abuso di potere da parte delle forze dell'ordine, che è un problema gravissimo mai risolto, che abbiamo un po' in tutto il mondo e non solo dove c'è una dittatura, e quindi in qualche modo, seppur tragicamente, ci si aspetta che no, il problema dell'abuso di potere l'abbiamo visto anche in Italia, l'abbiamo visto, è ovunque, perché dipende dalla persona che lo esercita, che lo vuole esercitare. E allora a questo punto io ho allargato il progetto e ho detto: voglio parlare anche di rotte balcanica, dei migranti, confine Bielorussia-Polonia, ovunque, tutte le zone di confine in cui avviene e avvengono queste violenze, di cui ogni tanto si parla ma poi passano sotto silenzio perché sono tragiche, non sono spesso testimoniate da nessuno, vengono presi i cellulari, vengono picchiate le persone, vengono offese, umiliate davanti ai bambini, quindi questo esiste. E movimento Black Lives Matter, argomento che mi tocca tantissimo, e, con le loro manifestazioni che stanno portando avanti da un'intera vita, e ancora oggi sentiamo sempre anche lì di tragedie che avvengono. Quindi ho detto: allarghiamo a tutto, proprio veramente a tutto, parliamone in maniera generale, parliamone in maniera internazionale, però lo faccio attraverso i miei dipinti, che da sempre trattano di questi argomenti negli anni, perché trattano della rotta dei migranti, Capovetere, Modena e poi tutto quello che si può vedere. Però al di là di una mostra libera, gratuita, dove assolutamente non verrebbe fatta vendita, anche per una questione ovviamente di principio, volevo, parte più importante, che ci fossero delle persone di Amnesty International, dell'associazione Antigone, amici che so che hanno fatto la traversata tragica e che possono testimoniare, amici che possono testimoniare sulle situazioni e posti di dittatura, sulla situazione che c'è in Eritrea, della dittatura militare e tante tante altre situazioni, e parliamone in giornate che poi si stabiliranno al pubblico, quindi una mostra ascolto se possibile, no? Dove si può venire a visitare quando si può e quando si riesce, però poi ci sono questi momenti prestabiliti ovviamente, dove il pubblico può venire, sedersi e ascoltare e fare domande con persone che però più di me e in una maniera diversa affrontano sempre queste problematiche e possono dare anche delle risposte importanti. Io credo che l'abuso di potere da parte delle forze dell'ordine è una cosa che mi fa male e che mi fa paura, certo. E che esiste sempre. E è per questo che purtroppo ancora oggi non ho trovato lo spazio, il progetto rimane, e quando potrò lo realizzerò. Il pane e le rose cercherà in tutti i modi di darti una mano, perché anche a noi interessa, sì. Perché noi come operai diciamo sempre che non abbiamo mai visto la polizia caricare dei banchieri oppure dei grossi, no? finanzieri, la borghesia non è mai stata caricata, invece per caricare degli operai noi ne abbiamo visti tantissimi casi, anche quando difendono il proprio posto di lavoro. E dunque ci interessa. Sì. E ti daremo una mano se qualcuno ascolta, sì. Se vuole dare una mano a Eloisa, sì. Molto volentieri può contattare la radio. Un'altra cosa, tu c'hai una kefia. Io ho visto che tu, sì, hai dipinto sì. Anche su questo, sì. Qualcosa sulla Palestina, noi, sì. È un altro argomento che noi affrontiamo, sì. E ci interessa direttamente sia sul lato umano, ma anche sul fatto, mm-hmm. Anche proprio nel merito, nel fatto che questa guerra per noi sta diventando un problema anche nelle fabbriche, sia la guerra in Ucraina che la guerra che sta avvenendo in Israele, ma nello Yemen, e per noi significa, sì. Che i padroni ci stanno scaricando su di noi come lavoratori. Mm, mm, mm. Tu hai dipinto? Sì, sì, ho dipinto, chiaramente sto con la causa palestinese, ma questo da prima dell'attentato tragico che chiaramente ha provocato comunque altrettanto dolore, però è chiaro che se parliamo di terrorismo, tu non puoi rispondere al terrorismo con un terrorismo ancora più grande, certo. Cioè centuplicato, non funziona così e non puoi raccontare questo. Se usi la parola terrorismo, allora a questo punto la devi usare anche quando il terrorismo lo fai tu. Detto questo, c'è una gran confusione, come al solito, si creano delle fazioni che secondo me, se non politicamente, non avrebbero senso di crearsi, perché umanamente la Palestina subisce questo da tantissimi anni, da 75 anni, da oltre 75, cioè tantissimi anni, quindi, però in questo momento la situazione si è aggravata ovviamente tantissimo, perché si tratta di un genocidio, e su questa parola genocidio io ho sentito dei politici dire no, cioè chiaramente no, non sta ancora avvenendo, siamo rischio di, no, 12.000 bambini morti, tutte queste che ora che io e te parliamo sono saliti di numero, e questo è un genocidio, c'è solo una parola ed è questa. Detto questo, non significa ovviamente essere antisemiti, soprattutto visto che l'argomento nasce, esatto, cioè, e quindi ecco, questo qui nasce una grande confusione, secondo me, davvero una grande confusione, quando in realtà le cose insomma sarebbero molto chiare. Tra l'altro c'è per fortuna, almeno umanamente, una grossa resistenza per la Palestina, nel senso una grossa solidarietà, peraltro di tanti e in tante parti del mondo, che comunque è stata molto forte, è stata di massa, perché va detto, e molti israeliani, e qui io lo dico, hanno anche sono contro questo governo, certo. Israeliano, e va detto anche perché loro stanno subendo, quelli che sono contro ovviamente, altrettante violenze, perché non gli si sta permettendo ovviamente di manifestare contro, e quindi questo va detto. Io mi auguro che il cessate il fuoco chiaramente immediato, e purtroppo anche con il cessate il fuoco immediato questa cosa non si potrà mai dimenticare. Qui siamo veramente davanti a una pagina della storia che è terrificante. È vero. Terzo ultimo argomento, sì. Perché io ho guardato i tuoi quadri e li ho osservati c'è un sito internet di Eloisa Guidarelli, c'è la pagina Instagram, ma sul sito internet si possono vedere tutti, è più facile, tutti. Sì, sì. E come il sito internet? È www.eloisaguidarelli.it. Ecco, andate su questo sito. Allora, io ho visto che moltissimi quadri parlano di una cosa che io penso che ti sia a cuore, è la violenza sulle donne. Sì, sì, ho sì. Notato che la stragrande maggioranza dei tuoi quadri parla di questo, e questa è una cosa che noi affrontiamo al Pane delle Rose, stiamo affrontando anche in fabbrica, nei luoghi di lavoro. Io faccio parte della FIOM, noi nel contratto nazionale abbiamo messo delle cose importanti contro la violenza sulle donne, facciamo dei protocolli nelle fabbriche dove possiamo, perché è un mondo di maschi, sì. Più un mondo è di maschi peggio è, non è sempre così, però purtroppo è così, e dunque dobbiamo spesso ricorrere ai ripari. Cosa ci puoi parlare di questa? È una cosa che ti tocca. Sì, mi tocca. Se non vorrei affrontare cose tue personali. No, però, no, no, certo. A parte che ogni donna in questa situazione, certo. Voglio dire, è personale, ormai per ogni donna è personale. Il discorso delle donne nella mia pittura è stato anzitutto per riscattarle. Certo. La storia le ha sempre messe, e tutt'oggi e anche storicamente sono state sempre dietro l'uomo, ovviamente. E con la pittura volevo fare una cosa diversa, volevo metterle davanti all'uomo, volevo metterle comunque anche come protagoniste, E quindi per molto tempo ho dipinto proprio quasi esclusivamente donne. L'unico essere umano maschile che dipingeva, adesso sono cambiata coi fatti proprio delle carceri, ho cominciato a dipingere anche uomini, ma era proprio una scelta. Sì, ho visto. Era proprio una scelta che rimane, nel senso che le voglio riscattare, voglio dare alle donne importanza. E poi perché mi affascinano molto il mondo femminile, perché è in continua lotta il mondo femminile. A me affascina la lotta, chi non si arrende. E le donne si meritano assolutamente questa attenzione. E poi, spinta anche chiaramente dalla situazione sempre più grave dei femminicidi, è diventata anche attraverso la pittura e poi le donne, la grande rivoluzione che stanno facendo le donne in Iran. Di cui adesso mi dispiace si parla un po' meno, perché ci sono sempre le notizie che parlano, esatto, prima se ne parla tanto, giustamente, poi non se ne parla più, prima c'è la rivoluzione, il taglio dei capelli e poi non si sa, però loro continuano, certo, a rischiare la vita, continuano. E per me, sì, per me è importante parlare di questo coraggio delle donne. Questa speranza che non deve mai morire, e oggi quello che mi piace è che effettivamente, allora, la donna viene uccisa e si dice oggi ci sono questi femminicidi, ma magari ieri non c'erano, oppure c'è, no? Sempre questo confronto col passato. Io penso che la donna oggi viene uccisa banalmente perché la donna oggi non accetta più quello che accettava ieri. Questa è una chiave, non tutte le donne femministe ragionano così. La donna non accetta più e si trova, e questa, tra l'altro, voglio sottolineare che è una lotta che non è solo delle donne, non l'ho detto io per primo, sì, però mi ci accoda questa cosa, non è una lotta solo delle donne, è una lotta importante che va fatta anche a fianco di uomini, certi uomini che hanno che capiscono che viviamo in un mondo patriarcale, e questa lotta va fatta insieme perché è una grande liberazione che farà bene anche all'uomo. Se l'uomo capisce questo, farà bene anche all'uomo. E ci sono la questione maschilismo e femminismo, ci sono degli uomini femministi e ci sono delle donne maschiliste, quindi qui si tratta solamente di volere la liberazione della donna, perché la donna è un essere umano. Altra cosa che sembra una banalità, non lo è. La donna è un essere umano, va detto, perché in questi femminicidi avvengono perché la donna è considerata un oggetto di possesso. Quindi è mia, quindi la posso rompere, quindi mi appartiene. Sono tutti concetti che ci vuole una grande rivoluzione culturale. Anche qui non mi trovo a dire cose che sono già state dette, ma bene, le ripetiamo in più di una persona. Ci vuole una grande rivoluzione culturale perché parte tutto da lì, da questo concetto. Va bene. Sentite, Guidarelli, avete capito che è una grandissima compagna, ho fatto bene a intervistarti, sono contento di questa intervista. Questa parola sovversiva oggi, sono anche antifascista, posso dire? No, sì, lo puoi dire, ma vabbè. Se non fosse capito. Allora, se non ti avrei intervistato, chiaramente, questo io penso che chi ascolta il Pane e Rose lo sa, a prescindere, però a me interessava più i quadri, perché... come quando ci siamo sentiti, io l'ho detto, io ho bisogno di fare finalmente, di parlare di arte con i contenuti, di arte rivoluzionaria, di arte che possa arrivare anche ai lavoratori, che spesso purtroppo di arte non se ne parla più. Oggi l'arte è sempre più borghese. Io intanto vado a seguire nei musei e non trovo la classe operaia nei musei, trovo la gente ricca, la gente che va a vedere le mostre perché ama l'arte, ma è spesso non guardi i contenuti. L'arte è sempre stata rivoluzionaria, e quando incontro una pittrice rivoluzionaria, non sovversiva, perché sovversiva me non interessa, la questione sovversiva o meno, mi interessa se sei rivoluzionario, se parli di contenuti importanti, qualcosa che può far riflettere i lavoratori, le persone, il popolo, e li può svegliare. Per me questo è importante, ecco perché noi diamo voce alle persone come te. Ti ringrazio. Grazie. Grazie a te. Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo, sono uno specchio che si è rotto. Sono l'amore, un canto, il corpo, un vestito troppo corto. Una voglia, un desiderio, sono le quinte di un palcoscenico. Una città, un impero, una metà, sono... sono l'intero. Ai ai ai. E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto. Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo. Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto. Sono sincera, sono bugiarda, sono volubile, sono testarda. L'illusione che ti incanta, la risposta è la domanda. Sono la moda, l'amore, il vanto. Sono una Madonna e il pianto. Sono stupore e meraviglia. Sono negazione e orgasmo. Nascosta dietro un velo, profonda come un mistero. Sono la terra, sono il cielo, valgo oro e meno di zero. Ai ai ai ai ai ai ai. Ai ai ai ai ai ai ai. Mi chiamano con tutti i nomi, tutti quelli che mi hanno dato. E anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto. Sono stata tua e di tutti, di nessuno e di nessun altro. Con le scarpe a piedi nudi nel deserto e anche nel fango. Una nessuna, centomila, madre e figlia, luna nuova. Sorella amica mia, io ti do la mia parola. Allora, avete ascoltato Mariposa di Fiorella Mannoia, un pezzo scelto da Eloisa Guidarelli, la nostra pittrice preferita, che noi abbiamo intervistato oggi. Per chi si fosse perso l'intervista o avesse acceso adesso la radio o avesse perso un bel pezzo dell'intervista, vi ricordo a tutti che potete trovare su Facebook la pagina Il Paio delle Rose, il podcast della trasmissione come altri podcast. Adesso io vi lascio, vi dico solamente che bisogna supportare gli artisti indipendenti, supportate i pittori come Eloisa Guidarelli e tutti gli altri artisti che fanno un'arte legata a tematiche di lotta di classe, di diritti violati, di diritti sociali. E il Paio delle Rose sarà sempre con loro. Supportate l'indipendenza artistica, supportate l'arte rivoluzionaria e soprattutto supportate Radio Città Fucico, che è l'unica radio indipendente oggi qui a Bologna, a meno di che, insomma, che non è solamente online. E vi saluto e alla prossima puntata. Ciao a tutti. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro